Borromeo è che a volte per gli acquirenti, se i siti non sono del tutto chiari e trasparenti, si fa fatica ad avere visibilità del prezzo finale. Allora figuriamoci che risonanza può avere un sito internet che permette di fare il prezzo agli stessi acquirenti di ciò che si acquista. Allora, Benedetta Bagni, responsabile delle relazioni esterne di Office Now, buongiorno. L'abbiamo svegliata questa mattina presto per farci raccontare un po' che cosa c'è alla base di questo progetto, che in realtà è partito da un po' di tempo, come funziona, in sostanza se è anche un modello commerciale che ha avuto un certo impatto fra i consumatori. Intanto, insomma, come siete nati, che cos'è Office Now? Allora, molto semplicemente Office Now è un sito internet di e-commerce di prodotti per l'ufficio, dove il prezzo è deciso esclusivamente dal cliente. Su Office Now infatti ci sono oltre 12.000 prodotti e vengono tutti venduti al prezzo di costo. Sarà il cliente a navigare, acquistare e infine assegnare il prezzo che preferisce lui. Infatti alla fine della navigazione, diciamo, c'è una sezione dedicata a ora selezionare il nostro giusto guadagno, dove ogni cliente può valutare la percentuale da assegnare a noi, a officenow.it. Questo quindi è l'unico guadagno che officenow.it ha ed è in pieno controllo del cliente. Adesso faremo anche qualche esempio pratico per capire poi anche voi che cosa ci guadagnate, no? A proporre un modello di questo tipo. L'idea di un modello distributivo di questo genere è venuta ad un imprenditore che si chiama Nicola Ferro. Da 20 anni vende prodotti per l'ufficio e lui ha pensato di attivarsi con questa iniziativa partendo da una filosofia di fondo: economia partecipativa e risparmio condiviso, che mi sembra quanto di meglio ci possa essere anche in un momento un po' complesso dal punto di vista economico per molte famiglie come quello attuale, ma anche per molte aziende, perché poi alla fine i vostri prodotti vanno soprattutto alle aziende, vedo. Sì, assolutamente, anche i privati, ma è chiaro che il nostro maggior mercato può essere quello delle aziende. Sì, infatti Nicola Ferro secondo me ha avuto un po' di follia e un po' di coraggio e spero di trovare nelle persone che incontra, quindi i nostri futuri clienti, la stessa follia e lo stesso coraggio in un momento soprattutto come questo. L'idea è quella di una totale trasparenza e di dare la nostra fiducia al cliente, in modo tale che il cliente possa essere un supporter e non un semplice cliente e che partecipi insieme a noi alla crescita dell'azienda e a decidere l'economia del mercato. Ecco, naturalmente sì. Sì, no, è un po' come fosse un cambio totale delle normali regole del mercato. Non è più l'azienda a definire i prezzi, ma a quel punto è il cliente stesso. Allora, tra l'altro ieri mentre mi stava elaborando la scaletta, il mio Alessandro Longoni, il mio collaboratore appunto di Soldi e Dintorni, mi ha segnato un tipo di esempio che possiamo utilizzare appunto per far capire proprio come funziona il vostro lavoro ai nostri ascoltatori. Lui insomma mi ha messo: ammettendo di voler comprare una sedia operativa Jamaica Ergosit, mi viene anche da ridere, ma in realtà lui mi ha scritto: è molto simile a quelle che noi abbiamo a Radio 24. Queste sedie da ufficio le troviamo sul mercato a circa 70 euro. Immagino che quello sia il prezzo di riferimento anche per i possibili acquirenti. Il prezzo sul vostro sito, per esempio, è di 53 euro. Allora, lì come si crea la relazione fra l'acquirente e voi? Allora, noi mettiamo il prezzo di costo, cioè quello che costa effettivamente anche a noi. E questo può essere addirittura verificato per clienti un po' pignoli che non credono, perché il problema grosso all'inizio è proprio il fatto di non capire se sia una truffa oppure è realtà. E quindi noi possiamo anche fornire ai nostri clienti una dichiarazione confessoria dichiarando proprio il nostro reale prezzo d'acquisto. Quello che poi guadagniamo noi è una percentuale che il cliente stesso decide di fornirci. E quindi può partire da 0 a 100, ovviamente, perché in fondo può provare. Quello che noi vogliamo è che cominci a provare a navigare con noi, a comprare con noi, per poi effettivamente fidarsi del nostro lavoro e darci una maggiore percentuale. Ecco, in relazione all'esempio che le ho fatto, dunque, per esempio, per un prezzo di questa sedia che è di 53 euro di base, ci può essere l'acquirente che ve ne propone 54 l'una, così come ci può essere quello particolarmente generoso che ve ne propone 80? Assolutamente, ed è ben accetto, sono ben accetti entrambi. Quindi per entrambi insomma li accontentati, ovviamente non si può andare lì sotto. Ci sono delle commissioni per quello che riguarda, intanto dove arrivate? Per esempio se vi chiama e se vi fa un ordine il cliente, voi siete a Padova se non ricordo male, no? Sì, in provincia di Padova. Se vi fa un ordine un cliente dalla Sicilia, voi riuscite ad accontentarlo? Assolutamente sì, noi i nostri tempi di solito sono di 24 ore, però per le isole e distanze un po' più lunghe passiamo a 48 ore, ma 48 ore al massimo. Ecco, ma se questo cliente della Sicilia vi fa un ordine per 20 sedie Jamaica, che sono quelle che ho citato, naturalmente siete voi che le spedite da Padova oppure vi appoggiate ad un'altra struttura? ci appoggiamo a delle strutture esterne che però appunto ci garantiscono l'efficienza, e l'ordine è erogato subito, praticamente subito, il giorno stesso in cui viene fatto, se avviene entro le 16:30. E come funziona il sito? È necessario registrarsi? No, diciamo che per avere le informazioni principali non è necessario registrarsi. Poi, una volta fatto l'acquisto, invece a quel punto è necessaria una registrazione, giusto per fornire tutti i dati. Quando siete partiti, Benedetta? Come sta andando fino a questo momento? Tanto per capire se è un modello che piace, se magari ci fosse qualcuno all'ascolto che volesse attivarsi anche con un progetto imprenditoriale di questo tipo, magari per altri articoli, potrebbe essere una buona idea. Assolutamente. Siamo partiti più o meno a metà gennaio. E diciamo che da 2 mesi a questa parte, un mese e mezzo a questa parte, abbiamo già un 250 clienti che hanno provato il nostro sito e adesso stanno già facendo i secondi ordini, dando e fornendoci una percentuale maggiore rispetto a quello che avevano dato nella prima prova, diciamo. Quindi insomma vogliono consolidare la relazione commerciale che si è instaurata. Stiamo cercando proprio di fidelizzarli, l'idea è proprio quella, cioè di creare un rapporto di fiducia e di trasparenza da entrambi i lati, in modo tale che possano continuare a comprare con noi. Quanto costano le spese di spedizione? Quanto ammontano? Allora, le spese di spedizione sono gratuite per ordine superiore a 25 euro, per ordine inferiore c'è un prezzo forfettario di 5 euro. Allora, pensate di allargare, perché voi adesso operate in 5 grandi macro categorie: prodotti per l'ufficio, tecnologia, scuole didattica, ho letto, lei mi diceva prima fondamentalmente prodotti per l'ufficio, arredo e accessori, ma anche pulizia e servizi. Ma potrebbe essere possibile allargare l'offerta anche ad altri prodotti? Ritenete che sia una scelta sostenibile anche per un altro tipo di impresa? Assolutamente sì, noi abbiamo iniziato con questi, con prodotti per l'ufficio, perché l'esperienza arrivava da questo e quindi ci sentivamo molto più forti su questi campi, però speriamo che la cosa si possa ampliare ad altre categorie marciologiche. Benissimo, dobbiamo dare qualche altra informazione ai nostri ascoltatori, insomma quali sono le curiosità più diffuse che vi piombano addosso quando qualcuno naviga su Office Now, Benedetta? È che l'iniziale incredulità. Come sia sostenibile per voi anche questo modello, in sostanza? Come fate a reggere un'attività economica di questo tipo? Noi speriamo nei nostri clienti. La fiducia è quella che il cliente sia così soddisfatto da poter condividere con noi questa nuova idea di mercato e quindi portarci avanti. È come se il cliente facesse parte, diciamo, della nostra azienda. Benissimo. In qualche modo. Io tra l'altro quello che volevo segnalare invece ai nostri ascoltatori è che io la notizia della vostra attività l'ho trovata su un altro sito molto divertente, del quale abbiamo già parlato nella nostra trasmissione, che si chiama Braccino Corto. È molto divertente, però anche lì ci sono tante notizie, tanti suggerimenti molto interessanti proprio per permettere alle famiglie di guardarsi intorno e di trovare tutto ciò che attiene al risparmio e quindi alla buona gestione del bilancio familiare. Benedetta Bagni, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo, ci risentiamo grazie magari mille. Nei prossimi mesi, così ci racconta un po' com'è andato il vostro lavoro nei prossimi mesi. Grazie ancora. Grazie, buon lavoro. Alessandro. Allora, alle 12. Alle 12, guarda, Salva Danaio. Sì, in presa un poco torniamo sugli stessi argomenti, perché oggi parliamo del carrello della spesa e andiamo a caccia di tutti quei siti internet, ce ne sono diversi in Italia, che permettono di comparare i prezzi dei generi alimentari in relazione appunto al supermercato dove si vuole andare, quindi insomma ci sono delle cose carine, interessanti da prendere appunti. Allora, noi oggi nel nostro sondaggio parliamo di politica internazionale, per una volta, come detto prima, apriamo i nostri orizzonti e le nostre menti. Ieri il vicepresidente americano Biden è andato in Israele e il presidente israeliano Shimon Peres gli ha detto: uno come Ahmadinejad, uno come l'Iran, un paese come l'Iran che chiede ogni 2x2 la distruzione di Israele, non dovrebbe stare nell'ONU. Molti giornali oggi titolano: Israele chiede l'Iran via dall'ONU. Che ne pensate? Siete d'accordo con questa richiesta israeliana? Radio24.it se volete votare, siamo invece qui se volete intervenire. 800 24 00 24. Alle 8:32 minuti, ben ritrovati. Le notizie in primo piano: per la politica, nuovo no alla presentazione delle liste del PDL nella provincia di Roma, è arrivato ieri dall'ufficio elettorale del Tribunale della Capitale e Berlusconi dice: ora scendiamo in piazza. Per quel che riguarda invece i voti parlamentari, ci sarà oggi il voto finale sul legittimo impedimento. Il governo ha posto la fiducia, l'opposizione insorge e chiede la presenza del Premier in aula. Sulla crisi economica in Commissione Lavoro, un primo sì a una proposta di legge bipartisan per dare 6 mesi in più di cassa integrazione per il 2010-2011. La cassa così passa da 1 a 1 anno e mezzo, ma il ministro del welfare Sacconi frena. Infine, per il calcio, gli ottavi di Champions League, non ce la fa la Fiorentina, che batte 3-2 in casa al Bayern Monaco, ma viene eliminata. Ieri è passato anche l'Arsenal, 5-0 sul Porto. Stasera tocca al Milan, impegnato a Manchester con lo United. All'andata San Siro finì 3-2 per gli inglesi. E allora alle 8:33 minuti parliamo di attualità internazionale. Nel nostro sondaggio di oggi parliamo di Iran, parliamo di Israele e di quello che è successo ieri nella visita del vicepresidente americano in Israele. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Insomma, sono successe tante cose, ma incontrando il presidente israeliano Shimon Peres, Joe Biden, il vicepresidente, il vice di Obama, si è sentito dire tra l'altro questo in sostanza. Uno come Ahmadinejad, a capo di uno Stato che chiede la distruzione di Israele, che nega l'olocausto, che molto probabilmente è in cerca dell'atomica, non può essere un membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, non può andare in giro per il mondo, essere accolto come un eroe culturale, non può andare in giro nelle capitali del mondo ed essere accolto ovunque, deve essere isolato dalla comunità internazionale. Per la cronaca, oggi Ahmadinejad ha preso un aereo ed è a Kabul, dunque nella capitale dell'Afghanistan. Ahmadinejad va isolato e l'Iran va estromesso o in qualche modo tolto da membro effettivo delle Nazioni Unite. Questo chiede Shimon Peres, che ne pensate? Radio24.it, se volete votare, 800 24 00 24 per intervenire. Voglio salutare, ritroviamo Carlo Panella, buongiorno, ben ritrovato Panella. Buongiorno. Tra l'altro, come abbiamo ricordato anche nell'ultima nostra ospitata, ha scritto Ayatollah atomici per Mursia, dunque il tema dell'Iran e della ricerca dell'atomica. Voglio salutare anche il professor Danilo Zolo, che insegna filosofia del diritto a Firenze. Buongiorno professor Zolo. Buongiorno. Si occupa spesso di questi temi, scrivendone anche sul Manifesto. E saluto anche Ahmad Rafat, che è corrispondente di Voice of America. Buongiorno, iraniano di nascita, ma credo italo-iraniano, Rafat. Di madre italiana. Perfetto, tra l'altro autore anche lui di un libro, Iran, la rivoluzione online, per Cult Editore. Panella, va estromesso dall'ONU Ahmadinejad, va cacciato, va isolato totalmente? Ma guardate, Peres è uno degli uomini più esperti in diplomazia del mondo, è premio Nobel della pace, è membro autorevolissimo dell'Internazionale Socialista, non l'ha mai dimenticato, e sa benissimo che questo non si può fare, che non esiste un precedente, ma il messaggio che ha voluto dare è molto chiaro ed è un messaggio che dice, guardate che come si sa nella storia le sanzioni economiche che l'ONU si appresta a fare perché l'Iran dimostra di non voler assolutamente sottoporsi ai controlli e dimostra anzi di costruire la bomba atomica, non bastano, non sono sufficienti e quindi bisogna che ci sia una forte reazione politica di isolamento nel mondo dell'Iran e di Ahmadinejad. C'è un'altra proposta che Israele ha avanzato, questa sì concreta e fattibile, che è quella di inserire i Pasdaran, che sono le guardie della rivoluzione che stanno sviluppando questo programma atomico, che stanno reprimendo peraltro le manifestazioni in piazza con ferocia, che controllano anche l'apparato giudiziario, per cui che stanno anche elevando e impiccando le forche, impiccando i manifestanti, vengano inseriti nella lista dei terroristi, dell'organizzazione terrorista dell'ONU e dell'Unione Europea. Teniamo conto, per capire con che gentina abbiamo a che fare, che l'attuale ministro della difesa iraniano, voluto da Ahmadinejad, ex generale di Pasdaran, ex responsabile delle operazioni estere, è inseguito in questo momento da un mandato di cattura internazionale Interpol, emesso dalla magistratura argentina per essere stato il mandante di una strage di 85 ebrei di un centro culturale ebraico, sì. Quindi proprio la cosa peggiore, non israeliani, a Buenos Aires nel 95. Quindi diciamo un segnale politico alla comunità internazionale. Guardate che non basta parlare di money, soldi, business e sanzioni che magari rischiano, bisogna isolare il regime anche per aiutare. Che vorrebbe dire isolare, cosa vuol dire? Non so, Ahmadinejad vorrebbe arrivare in Italia, gli si dice no, in Italia non sei persona non grata? Ma è già stato fatto, guardate così, perché Ahmadinejad è venuto in Italia, è venuto alla FAO, dove non si può non farlo venire perché è un'organizzazione internazionale. Tutto il mondo politico politico italiano e il Vaticano si è rifiutato di riceverlo. È stato un segnale esattamente in questa direzione. Cioè non è un problema di formalismo, figurati si può mettere ai voti all'ONU la messa fuori dell'organizzazione di un paese, ma è un problema di un atteggiamento duro, sì, rigido, non stringere la mano. Purtroppo mano che viene stretta da personaggi come Lula, perché questo è il disastro. Cioè il messaggio è un messaggio che non vale soltanto nei confronti di Ahmadinejad, ma anche di quei paesi democratici come il Brasile, che hanno nei confronti dell'Iran una posizione irresponsabile. Qualcuno ha detto, e molti anche fanno delle critiche in questo senso, ma come Shimon Peres, vorrei andare su questo dal professor Danilo Zolo, Shimon Peres, che è spesso critico nei confronti della politica israeliana, Shimon Peres invoca l'ONU, cioè nel senso a dire, certo è una provocazione forte, è chiaro che non si potrà espellerlo, tecnicamente non è possibile, ma isolamento non può far parte dell'ONU quando lo Stato di Israele, questo è notorio, non rispetta moltissime delle risoluzioni che le stesse Nazioni Unite hanno adottato in questi anni. Non è vero, dice Panella? Cioè, no, assolutamente non è vero. No, non è vero. Delle raccomandazioni, nega la verità. Sentiamo Zolo, poi Panella risponderà. Sì. Zolo, questa è per esempio un'obiezione che si può fare oppure no? Beh, innanzitutto credo che si possa dire, l'ha sostenuto anche Panella, che l'espressione di Shimon Peres è priva di qualsiasi significato sul piano del diritto internazionale. Le Nazioni Unite non possono espellere nessun membro che aderisca all'istituzione. Quindi Peres è certamente un personaggio di grande rilievo, ma è anche molto anziano, probabilmente non ha controllato il suo pensiero. E, è chiaro che Biden non ha risposto, non ha accettato per nulla questo tipo di provocazione, che isolare moralmente, come ha sostenuto Shimon Peres, l'Iran sia un contributo alla pace, sia un contributo alla risoluzione dei terribili problemi che hanno in qualche modo tormentato il Medio Oriente in questi anni, mi pare assolutamente una cosa da escludere. Aggiungerei che se c'è uno Stato che non ha minimamente, come dire, buone ragioni per sollevare il problema del nucleare, sono proprio loro, insomma, Israele, che come tutti sanno è la quinta potenza nucleare del mondo. Ho capito, però professor Zolo, non mi faccia questo, cioè vuole paragonare, diciamo, la democrazia di Israele con quello che c'è in Iran, perché questo è anche il tema. La democrazia anzitutto di Israele può essere largamente discussa, lei sa che in Galilea c'è 1.300.000 arabi israeliani che sono pesantemente discriminati, ad esempio non possono assolutamente assumere funzioni pubbliche, non possono fare il servizio militare, subiscono. Ci sono dei problemi, certo, ma ci sono anche delle elezioni, poi, c'è un Parlamento che votato. Lo Stato democratico non dovrebbe tenere l'atteggiamento che Israele ha nei confronti del popolo palestinese, dei territori occupati, lei sa benissimo che sono occupati in violazione gravissima del diritto internazionale e contro una lunga serie di decisioni prese. Questo però vorrebbe dire, professore, e qua non ce n'è tempo, di fare la storia, ripeto, e che Israele sia che rifare la storia, che poi come sempre ha dei punti di vista diversi. Israele viola assolutamente tutte le norme del trattato per la non proliferazione nucleare. Lei questo quindi lo dice, però, che Israele sia una democrazia non paragonabile all'Iran, lei su questo mi dà una risposta? Cioè non mi può dire, che l'Iran sia una democrazia, certo, questo va escluso, è chiaro, è un regime. E che Israele sia una democrazia, lei lo esclude. Che io non guardo con simpatia, questo è certo, ma questo non giustifica minimamente che Israele, ripeto, quinta potenza nucleare del mondo, che rifiuta qualsiasi controllo dell'Agenzia Internazionale per il controllo del nucleare. Quindi credo che questo sia veramente... Vabbè, lei non piace, dice, è inaccettabile che Israele invochi l'ONU. Prima che Panella replichi su questo, perché so che si era molto infervorato già sul fatto, non è vero, sentiamo però cosa ne pensa anche Ahmad Rafat, come ha detto. Le voglio chiedere innanzitutto, Rafat, se il dossier nucleare iraniano sia veramente a questo punto. Cioè il mondo si interroga su... capire che cosa voglia fare Ahmadinejad. Vuole assolutamente cercare l'atomica, vogliono il nucleare per scopi civili, come dicono loro, oppure dobbiamo guardare con grande inquietudine, profonda inquietudine, quello che sta succedendo in Iran? Io non sono, l'ho sempre detto, non sono convinto che i programmi nucleari iraniano siano a scopo pacifico, né quello ricominciato dopo la fine della guerra con Iraq, nemmeno il programma iniziale del 1975, cioè 4 anni prima della rivoluzione. Pure allora la situazione era diversa, nel senso che l'Occidente voleva aiutava l'Iran a costruire il suo nucleare, precisamente Germania, e lo stesso Israele, lo stesso Peres, che all'epoca, se non mi sbaglio, era vice ministro di difesa, si recò in Iran per parlare di progetti di nucleare militare iraniano con l'Iran monarchico, che era alleato di Israele. Oggi la situazione è diversa, l'Occidente si oppone, ma alcuni paesi dell'ex blocco sovietico e la Cina che sostengono l'Iran. L'Iran si considera una potenza regionale e, come tutte le potenze regionali, vuole dotarsi dell'atomica militare per poter sedere con le carte in regola al tavolo dei grandi. E questo, in questo momento, tenendo presente del regime che guida il paese, è un fattore di forte destabilizzazione ed un pericolo non solo per Israele, ma credo soprattutto per l'intera regione e per molti paesi arabi anche. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, il presidente israeliano Shimon Peres, in maniera un po' provocatoria, dice fuori l'Iran dall'ONU, comunque isolamento totale. Siete d'accordo? Cioè, a dire, il 58% di voi per ora dice di sì. I critici come il professor Zolo dicono: ma come Israele chiama in causa l'ONU dopo che viola varie risoluzioni? Oppure dicono: ma come Israele ha il nucleare? I noi meno critici, io mi ci metto tra questi, dicono: ma come? Israele è una delle, forse l'unica compiuta democrazia del Medio Oriente, con tutti i suoi pregi e difetti, come tutte le democrazie, come tutti i paesi in guerra perenne. E la si critica. Allora, Panella, su questo una replica a Zolo anche del suo presidente. Sì, anche Arafat, però, perché guardate che è un grave errore pensare, saluto naturalmente Arafat, le tue analisi sono sempre stimolanti, ma è un grave errore pensare che l'Iran si stia dotando di bomba atomica soltanto in una logica di potenza per poter contrattare le proprie zone di influenza regionale con i paesi vicini. No, non è così. Non è solo così, è anche così, ma loro lo dicono, loro vogliono usare della bomba atomica all'interno di una nuova, intelligente strategia di deterrenza per sviluppare la rivoluzione. Cioè loro vogliono avere questo ombrello atomico che minaccia tutta la zona e che arriva fino al Mediterraneo e che arriverà fino a qui, non soltanto su Israele ma anche sull'Europa, per favorire lo sviluppo di tutte le contraddizioni e le tensioni nell'area e sviluppare la rivoluzione. E ci sono già riusciti, soltanto come effetto annuncio, conquistando il controllo politico attraverso Hamas di Gaza e attraverso Hezbollah del Libano. Questa è la pericolosità straordinaria di questo meccanismo. Insomma, Ahmadinejad non pensa di, appena avrà l'atomica, schiacciare il bottone e buttarla su Tel Aviv. Lo vuole fare, ma è molto più intelligente. Vuole semplicemente usare di questa minaccia per sviluppare le tensioni in tutta la umma musulmana, perché il suo scopo è sviluppare la rivoluzione islamica distruggendo Israele. A fronte di questo scenario io rimango allibito dalle posizioni del professor Zolo, che saluto, perché un relativismo tale, insomma, dica quello che vuole di Israele, a prescindere dal fatto che Israele, appena i paesi arabi accettano la trattativa, come hanno fatto l'Egitto e la Giordania, rispetta tutte le risoluzioni dell'ONU. Vediamo cosa ne pensano su questo due ascoltatori, poi torno da Arafat e Zolo se c'è tempo. Allora, innanzitutto Rusbe, mi dicono, si pronuncia così, da Milano, buongiorno. Sì, esatto, buongiorno. Di che nazionale? Lei è? Io sono iraniano. Ah, iraniano, ecco, dica. Sì, sono laureato in Italia, adesso lavoro in Italia. E che ne però pensa? Vado in Iran tutti gli anni, 3-4 volte all'anno. E niente, volevo indicare un punto, che non c'è bisogno di espellare da ONU, perché comunque questo governo non è che va tanto lungo, non può arrivare a 3-4 anni. cioè, dice comandanti che hanno fatto all'interno dopo aver rubato i voti, è una cosa incredibile. Comunque il Milan sicurezza per la persona, cioè io sono stato diverse volte, nessun problema, ma non può immaginare come la gente tranquillamente parla male del governo, è una cosa che non è stato mai negli ultimi 30 anni. Beh, certo, le abbiamo viste le manifestazioni, anche le censure, però lei dice però non durerà molto, Ahmadinejad. No, è quello che, come diceva signor Panello, professore, si vede che questo vogliono proprio per scopi civili, per poter massacrare civili iraniani all'interno, senza che nessuno dall'esterno abbia coraggio di attaccare, perché ormai è una potenza nucleare. Ah, diciamo, cioè avere il nucleare per dire così possiamo fare tutto quello che vogliamo all'interno, tanto nessuno ci attaccherà, perché nel momento in cui abbiamo la bomba nucleare possiamo difenderci bene. Grazie Rusbe, voglio andare a Pavia. Salvo, che dice? Sì, buongiorno. Dica. Allora, io ovviamente non voglio assolutamente difendere l'Iran, perché non si può dire che sia un esempio di democrazia, quindi potrebbe anche essere una buona idea, se fosse possibile, ma ho capito che ciò non è possibile, estrometterlo dall'ONU. Non però mi chiedo, ma se uno dice io voglio uccidere qualcuno, commette già un reato, ma se c'è qualcun altro che invece questo qualcuno lo uccide veramente, credo che commetta un reato molto più grave di quello che lo afferma e basta. Cioè, allora, a cosa questa lunga premessa, a cosa si riferisce? Chi ucciderebbe chi? Beh, allora, l'Iran dice che vuole distruggere Israele, è d'accordo, non, ovviamente è una cosa che non si può neanche pensare. Ma c'è Israele che, nonostante quello che ha subito, e ovviamente io non sono un negazionista, so benissimo tutto quello che ha subito da parte ci mancherebbe, insomma, ci mancherebbe appunto. Dico, e fa ancora più specie da un popolo che ha subito quello che ha subito, a fare ora che mette in pratica per decenni la distruzione di Palestina, della striscia di Gaza, eccetera, anche se non lo afferma. Cioè loro non lo dicono. Cioè che fanno? Lo fanno. Vabbè, lei dice, vabbè, ma Salvo, questa è la sua posizione personale. Cioè che vuol dire lo fanno? Che vuol dire lo fanno? Perché voglio dire, credo che sia sotto gli occhi di tutti, per fortuna adesso da un po' di mesi che le cose sono un po' calmate, ma per anni e anni e anni abbiamo visto i palestinesi che lanciavano i sassi e quelli che ammazzavano a decine, però nessuno diceva niente. Vabbè. Credo che tutte le risoluzioni dell'ONU di cui si parlava prima siano state fatte proprio per questa ragione. Va bene, grazie Salvo, questa è la sua opinione ovviamente. Rafat e Zolo, siamo in conclusione. Rafat vuole replicare, insomma Panella dice sulla posizione di Panella, sul perché secondo lui Ahmadinejad vorrebbe la bomba civile, cioè vorrebbe buttarla, poi non la butterà perché è molto intelligente e vuole utilizzarla per altri scopi più alti. Sono d'accordo con quello che ha detto Panella, che Iran utilizza, o quello che ho detto io, la bomba atomica, vuole utilizzarlo per esercitare la sua influenza come potenza, che questa influenza iraniana sia quello di mettere un po' il mondo islamico, creare uno scontro tra la civiltà, utilizzare il mondo islamico, sì, la umma islamica contro l'Occidente a propri scopi, eccetera, è ovvio che fa parte di questa strategia, non vedo nessuna contraddizione. L'ascoltatore iraniano che ci dice non durerà a lungo, lei che ne pensa? Ma io non scommetto sui tempi, anche perché l'Iran è un paese imprevedibile. 31 anni fa nessuno pensava che il regime monarchico dello Shah sarebbe caduto, che era la quinta potenza militare mondiale all'epoca, dopo 11 mesi. Carlo l'ha seguito da vicino, ha scritto pure un libro sostenendo la rivoluzione islamica. Io non ero d'accordo allora con la Repubblica Islamica, nemmeno adesso, ma non credo che sia così facile e immediato stabilire, la sua caduta. Stabilire i tempi. Io vorrei, ho 30 secondi, professor Zolo, però mi permette di stare in 30 secondi, mi prometta questo. Lei la pensa come il tempo. Pensa come il signor Salvo da Pavia, che dice un massacro quotidiano di Israele nei confronti dei palestinesi. Il massacro quotidiano nei confronti dei palestinesi è forse espressione esagerata, ma non possiamo dimenticare la strage di Gaza. Lei parla di Israele come di uno Stato democratico non fa strage in pochi giorni di 1500 persone, 400 bambini, 200 donne, senza nessuna ragione oggettiva di carattere militare. Questa non è democrazia, secondo me. Mi lasci dire anche un'altra cosa, è vero che il regime iraniano, un regime antidemocratico, che sarebbe molto bene trasformare in qualcosa di meno arcaico, ma che stia cercando l'atomica militare è una tesi non confermata. Noi sappiamo bene che l'attività nucleare dell'Iran è sottoposta continuamente al controllo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite e non è stato mai provato che ci sia una ricerca di carattere militare. E d'altra parte sappiamo che per creare una sola bomba nucleare passano perlomeno 4, 5, 6 anni. Quindi l'idea che ci sia un pericolo nucleare immediato da parte dell'Iran è pura fantasia del signor Pannella. Va bene, ci dobbiamo fermare qui. Ringrazio tutti, con Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, do la linea Oscar Giannino che oggi ospita Enrico Mentana. Noi ci sentiamo domattina.